Italia in controluce, la politica nel tunnel. Oggi è il 2 di aprile, Italia in controluce, come ogni giorno a quest'ora vi racconta il tunnel della politica. I vostri sms 349-238-6666. Questa puntata l'abbiamo chiamata così, tra i saggi e un nuovo governo pseudotecnico. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha riunito oggi 10 consulenti che dovranno fornire in tempi brevissimi suggerimenti di carattere politico, istituzionale ed economico e favorire il dialogo tra le forze politiche le cui posizioni restano distanti. Oggi il Corriere della Sera ha pubblicato lo sfogo di Napolitano che parla di fine amara del suo settennato con troppi sospetti assurdi su di lui e polemiche che giungono da tutte le parti in campo. Ma ci sono due fatti importanti che potrebbero sbloccare la situazione. Sono delle frasi diverse, differenti, a cui vorrei sentire cosa pensano i nostri ascoltatori al 349-238-6666. Innanzitutto c'è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che sostanzialmente dice: Monti non va bene perché Napolitano non ha mandato Bersani, il leader del PD, che comunque era uscito vincitore almeno in una delle due camere, non con la fiducia, bensì soltanto a sbrigare gli affari ordinari. E la seconda dichiarazione viene da questa mattina da Paolo Flores d'Arcais a Radio 24, che dice: ci potrebbe essere un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle sull'ipotesi di un governo pseudotecnico, cioè magari un governo guidato da Stefano Rodotà o Gustavo Zagabeschi, ipotesi che Italia in Controluce aveva già anticipato da oltre un mese come unica soluzione allo stallo politico. Che cosa pensate voi? C'è la possibilità, secondo voi, di un governo a guida Rodotà o Zagabeschi? Oppure, per quanto riguarda la proposta di Crimi del Movimento 5 Stelle, Napolitano avrebbe fatto meglio a inviare e Bersani a sbrigare i conti correnti del governo piuttosto che nominare Monti, a cui appunto il Movimento 5 Stelle, ma non solo, anche vedo il Popolo e Libertà, non va bene, non va giù. 349-238-6666. Cominciamo il nostro racconto da Elisabetta Fiorito, che saluto. Sì, Daniele, proprio così. Ci sono dei malumori al Quirinale, anche perché è il momento peggiore del settennato di Giorgio Napolitano, e ricordiamo anche che il Presidente della Repubblica è nel semestre bianco e che quindi non può sciogliere le Camere, ed è questo il problema fondamentale. Tant'è vero che durante la scorsa settimana, durante il secondo giro di consultazioni che poi di fatto ha commissariato l'ipotesi Bersani, Napolitano aveva anche pensato di dimettersi per cercare di favorire l'elezione di un nuovo capo dello Stato e così la possibilità di poter andare ad elezioni. E il capo dello Stato si è sentito un po' lasciato solo dai partiti, no? Con sospetti assurdi anche su di lui, ha replicato anche questo fatto che nei saggi non ci sono le donne, ha detto si sfiora poi il ridicolo. Però nel frattempo il lavoro continua, il primo gruppo dei saggi ha già iniziato il lavoro al Quirinale, ha già iniziato il primo incontro con il capo dello Stato, ricordiamo è composto da 6 persone e dovrà occuparsi delle tematiche economico-sociali, ma tra questi c'è anche Filippo Bubbico del PD, a parte Giancarlo Giorgetti della Lega rispetto ai politici, e Filippo Bubbico si è preso anche con Beppe Grillo e ha chiesto al leader del Movimento 5 Stelle di mettere fine agli oltraggi, perché dice che se si è titolari della fiducia di milioni di italiani non si deve ragionare più con slogan. Nel secondo gruppo, che è quello che si occuperà delle tematiche istituzionali, c'è Valerio Nida, Mario Mauro, Gaetano Quagliariello, Luciano Violante. Quagliariello dice di individuare fondamentalmente pochi obiettivi concreti che partiti e gruppi parlamentari dovrebbero realizzare insieme. Si parla sempre delle stesse cose, Daniele: la riforma dei regolamenti di Camera e Senato per rendere più snello il lavoro parlamentare, gli interventi sui costi della politica, che ricordiamo i tagli si possono fare anche solo con i regolamenti o al limite con un voto parlamentare semplice, la riforma della legge sul finanziamento pubblico e sullo stato dei partiti e la riforma della legge elettorale, e qui ci sono delle votazioni semplici, cioè anche la riforma della legge elettorale si può fare con una semplice legge, mentre più complicata la riduzione del numero dei parlamentari, perché il numero dei parlamentari sta scritto nella Costituzione, e ricordiamo quindi che ci vuole una doppia votazione a distanza di 3 mesi e poi l'accordo dei 2/3 del Parlamento, quindi questa è già un'ipotesi un pochino più difficile in un momento che vediamo di grande fragilità politica. Daniele. Bene, grazie. Intanto, proprio è notizia di pochi minuti fa che 8,5 milioni di tagli, compresa una riduzione del 25% delle spese per il personale di segreteria dei deputati, titolari di cariche, e una riduzione del contributo ai gruppi. Lo ha deciso pochi minuti fa l'ufficio di presidenza di Montecitorio, dimezzato anche il fondo di rappresentanza generale, in arrivo anche riduzioni per le spese telefoniche. Insomma, alla Camera si sta muovendo qualcosa per quanto riguarda i tagli alle spese. Intanto, alle tante domande che vi ho fatto, c'è chi dice che è meglio Monti che non Bersani. La domanda riprendeva la dichiarazione che aveva fatto questa mattina Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, che diceva: allora, meglio di Monti sarebbe stato inviare lo stesso Bersani non alla fiducia, ma a sbrigare gli affari correnti del governo. Un nostro ascoltatore dice molto secco: meglio Monti. C'è chi critica Quagliariello, dice Giovanni da Pescara, Quagliariello un saggio, uno dei collaboratori più stretti di Berlusconi. Il nostro ascoltatore critica anche il fatto che tra i saggi non c'è neanche una donna. Più spiritoso Marco da Ferrara, che dice che tra i saggi mancano il Dalai Lama, il Mago Telma e Panoramix. Vabbè, è abbastanza così spiritoso il nostro Marco da Ferrara. Intanto i partiti come la stanno vivendo questa vicenda dei saggi molto male, direi, vero Andrea Viali? Molto male. Beh, così sì, Daniele, abbiamo avuto modo di vederlo in questo lungo weekend di Pasqua, dopo il plauso bipartisan dei primi momenti sabato scorso, poi le forze politiche hanno di fatto bersagliato con critiche e perplessità questa iniziativa di Napolitano, al cui fianco è rimasto in pratica soltanto Scelta Civica. Le prese di posizione più critiche sono quelle arrivate dal Popolo delle Libertà, che, lo sappiamo, insiste perché si formi quanto prima un governo di larghe intese, altrimenti meglio il voto anticipato, dice in sostanza il partito di Berlusconi, il cui timore in realtà è che la nomina di questi saggi sia soltanto un espediente, un tentativo di prendere tempo a vantaggio del Partito Democratico, che potrebbe così cercare, finora non ci è riuscito, convergenze con il Movimento 5 Stelle anche per la nomina del prossimo Presidente della Repubblica, tema caro al Popolo delle Libertà e a Berlusconi. Il nome che circola a questo proposito in queste ore è quello di Romano Prodi, che non dispiacerebbe ai grillini. In verità, Daniele, c'è da dire che qualche dubbio sui saggi in questi giorni è stato espresso anche da diversi esponenti dello stesso Partito Democratico. Bersani non ha parlato, lo farà oggi, ha convocato una conferenza stampa nella sede del partito alle 4, e poi, che dire, c'è il Movimento 5 Stelle, posizioni che sono cambiate nel corso dei giorni e delle ore. Diciamo che da un lato ha apprezzato l'iniziativa di Napolitano perché ha di fatto legittimato la cosiddetta prorogatio del governo Monti che resta operativo anche solo per l'ordinaria amministrazione, una tesi questa sempre sostenuta dai grillini, ma dall'altro canto il Movimento 5 Stelle Grillo ha liquidato i saggi come badanti della democrazia. Secondo il comico, l'Italia non ha bisogno di loro in questo momento, ma quello che serve è un Parlamento pienamente operativo, e per questo è necessario urgentemente istituire tutte le commissioni parlamentari. Poi ne parlavi anche tu, oggi il capogruppo al Senato Crimi ha aggiunto che forse Napolitano avrebbe fatto meglio a dare l'incarico a Bersani, che anche se non avesse ottenuto la fiducia piena da parte del Parlamento avrebbe potuto comunque gestire gli affari ordinari con una maggiore, diciamo, legittimazione rispetto a quella di cui può godere il governo Monti. Daniele. Bene, grazie. Intanto i vostri sms al 349-238-6666. Viola da Milano dice che i saggi devono fissare 5 punti e riassegnare a Bersani la votazione in Parlamento. Se questo fa sì che si cambi la legge elettorale, ben venga. Per il resto è inutile, mandare al voto così è un rischio, dice un nostro ascoltatore. Non sono responsabili per se stessi, figuriamoci per gli altri. Cosa vorrebbe lo spiritoso radioascoltatore, dice Marina da Milano, ritornare al Premonti ridando potere al Circo Barnum. Un altro ascoltatore dice, il signor Napolitano, Sergio da Reggio Emilia, ha dato in mano l'Italia al governo dei tecnici e vediamo quello che hanno combinato invece di indire elezioni. Adesso si arroga il diritto dei saggi, manca solo lo sceriffo di Nottingham, cioè il signor Giuliano Amato. Ha già fatto abbastanza mazzate il signor Napolitano, dice Sergio da Reggio Emilia. Poi Bonino, fortissimamente Bonino, e chi chiede una donna, chi chiede Emma Bonino. Per un altro ascoltatore il problema vero è Bersani. Per Gianni da Siracusa, Rodotà al governo e Zagabeschi al Quirinale. Il Movimento 5 Stelle, secondo Francesco, ha scelto il suicidio. Non ne sentiremo certamente la mancanza, dice un altro ascoltatore che però non si firma. Un altro ancora dice che in Italia ogni volta che la sinistra sta per arrivare al potere succede qualcosa affinché questo non avvenisse. Si parla di tante vicende, il signor Napolitano, dunque un altro ascoltatore che critica duramente il Presidente della Repubblica sulla nomina di questi saggi. Come sempre siete molto divisi, ma del resto l'Italia è così. 349-238-6666. Torniamo nuovamente domani 3 aprile a raccontarvi, spero di uscire piano piano da questo tunnel che ci sta riportando e ci sta facendo raccontare di un'Italia che non riesce a trovare un governo e neanche una soluzione politica per il proprio futuro. Vi ricordo Facebook, pagina gruppo, Twitter, il nostro sito radio24.it. Un saluto a tutti da Daniele Biacchesi.